Quelet. Capitolo 39. Venezia. 6 ottobre 1551. Notte fonda. La Giudecca è una lunga lingua di case e alberi, stagliata contro il cielo. La barca accosta piano al pontile, sul retro di Cabarbaro. Faccio cenno al vogatore di fermarsi e allaccio la gomena al palo. Pago in fretta, il tempo di contare e spingo l'imbarcazione verso il largo, rischiando di sbilanciarmi. I miei passi risuonano sulle assi come su un tamburo. La porta. Busso. Niente, più forte. Il rumore di una finestra che si apre sopra la mia testa. Fatevi riconoscere! Sono Ludovico, sono tornato. La porta si spalanca all'improvviso. Una luce soffusa illumina la canna di una pistola. Duarte, sono io! Sgrana gli occhi assonnati. Diavolo, sei impazzito? Cosa ci fai qui? Devo parlare con Joao. Entro nel giardino della casa, trambusto dalle scale. Chi è? È Ludovico! Un'imprecazione in portoghese. Indossa una camicia orlata di pizzo, i capelli sciolti sulle spalle. Perché sei tornato? Ti avevo scritto... Lo so cosa mi hai scritto, ma non c'è tempo, dobbiamo parlare. Joao, con l'indice e il medio, si preme un occhio. Ah, all'inferno, sei pazzo. Vieni dentro. Mi fa strada fino allo scrittoio. L'Inquisizione indaga sul concilio dei tuoi amici anabattisti. Il nome di Tiziano è già saltato fuori in più di un'occasione. Venire qui è una mossa stupida da parte tua. Ravviva la brace nel camino. Poi si siede, continuando a stropicciarsi gli occhi per spazzare via il sonno. Mi guarda con l'aria di chi aspetta una spiegazione. Da quanto tempo sai del tedesco? Trattiene uno sbadiglio. Da qualche settimana. Non si fa vedere in giro, è inavvicinabile. Quando è arrivata a Venezia? Non lo so, 6 mesi, forse più. Sibila una bestemmia tra i denti. Io direi da quando sono cominciati gli arresti dei giudei. Joao, espressione seria. Dicono che sia il consulente particolare dell'inquisitore, che passi tutto il tempo a leggere i libri che vengono stampati a Venezia per scovare anche il più piccolo indizio d'eresia. Ah, lascia perdere le voci. C'è di mezzo ben altro. Che vuoi dire? Non ti sembra strano che Roma spedisca uno dei suoi a Venezia e improvvisamente qui si mettano ad arrestare giudei? Salta in piedi, improvvisamente sveglio, qualche passo nervoso, gli occhi sul pavimento. Pensi che si siano messi d'accordo per incastrarci? È chiaro. E se si tratta del tedesco che credo io, è un uomo di carafa, il migliore. Si passa una mano sulla barba e sbuffa sonoramente. Se è così dobbiamo saperlo con certezza. Da qualche tempo però è diventato sempre più difficile ottenere informazioni. Ci stanno facendo il deserto intorno e come se non bastasse ci tengono d'occhio ogni istante. Perfino il caratello è sorvegliato. Ho dovuto mettere delle spie a controllare le loro spie. Si ferma, evita il mio sguardo. Lo incalzo. Dimmi tutto. È saltato fuori un turco. Un truffatore da 4 soldi che bazzica l'arsenale. Si è messo a gettar merda su di noi. Dice di aver ricevuto dei soldi da un ricco giudeo per passare ai turchi tutte le informazioni su una flotta di Venezia. Una fitta al polso mi fa stringere i denti. Dobbiamo tentare qualcosa, Joao, prima che sia troppo tardi. Un brivido lo scuote. Raccoglie una pesante palandrana e se la avvolge addosso. Gli arabeschi dorati rilucono davanti al camino, mentre sprofonda nella portuna di cuoio. La stanchezza è scomparsa. Il suo tono è di nuovo quello di sempre. Dimmi cosa hai in mente. Il diario di Q. Venezia, 20 ottobre 1551. 3 giorni fa, Pietro Manelfi si è consegnato spontaneamente all'inquisitore di Bologna.